vicino a te. Dormo tra due cartoni ma ho l'anima pulita. Mi sento rete come ho scelto una matita. Per questo è magico ciò che ti scrivo. Sento il calore che mi trasmetti quando vivo. Vivo così, è la vita che ho scelto. Sono castelli che sono diventati sabbia. Mi sento in gabbia per non avere dato affetto a sangue del mio sangue. Ovunque vado se la gioco.